un'infinità di maledizioni. E, allora, scusa, è scritto proprio da un dio malvagio, deve essere. Ma, se trovo il passo te lo mando. Ma tu vedi le maledizioni che ci sono, se non crederai in lui, per carità, una cosa proprio satanica. E gli giocano su quello per provocare l'odio verso gli occidentali, hai capito? Perché loro proprio ci odiano. C'avevo anche ragione, cazzo di crociata abbiamo fatto i romani, scusa, a un certo punto, ci abbiamo buttati fuori cazzo da Gerusalemme, non so io, tu immaginati cazzo, vengono questi, tutta un'ora per accompagnare cazzo, i cristiani, tu prendi cazzo, li ammazzi e c'erano ragione a un certo punto, non è che c'erano tutti tutti, poi vabbè, per gli ebrei è un'altra cosa, quello dovrebbero essere con i tedeschi, non con noi. Ma loro si comportano di conseguenza, sono gli ebrei proprio che li hanno cacciati via e si hanno preso le terre per i coloni, hai capito? Sono proprio gli israeliani, solo che adesso poveracci non c'entrano niente gli israeliani, perché sono stati quelli di Hamas i primi a buttare i missili. Quello è vero però, sono rientrati in Israele decenni fa dicendo questa è la nostra terra e sarà tuo Dio, e cacciando palestinesi, quelli che c'erano all'epoca, là. Comunque tutti hanno ragione e tutti hanno torto alla fine. Sì, ma gli israeliani illegalmente si hanno preso il terreno dei palestinesi, hai capito? Però Hamas si è comportata male, nel senso che sono loro che hanno buttato i missili prima, gli israeliani non li stavano cercando. Sì, lì ci sono natali rancori decennali, ma forse millenari, capito? Ebrei, e così non si possono mai tutti vedere, così come era tra cristiani e ebrei, se guardi, se leggi quelle storie lì, per carità, non... nulla, non c'è, vabbè, lasciamo perdere, poi la penso per la religione, la penso in un certo modo, no? Non mi frega nulla a me. E mica di altrettanto per il sottoscritto. Il cristiano paga, l'ebreo dicono che non paghi, vero o non è vero? Io dico così, tu se non ebreo non paghi, a me il cristiano paga quando fa il lavoro. Vabbè, si dice ebreo quello che siano ciechi, che siano attaccati ai soldi, né? Molto attaccati ai soldi, come i genovesi, che sono tirchi. Esatto, sì, me lo ricordo sempre questo, ma sono tutti vicerie, ma ce la siamo, se siamo detto tutto quello che dicono, gatto guai. No, è un popolo bastardo, gli ebrei. Non si può nevire, tra i die, figura di un po' carino si può nevire all'asse. Guai se ci sentono, qua con il politically correct non puoi dire nulla, non puoi dire nulla che tutti si offendano, donne, uomini, bianchi, neri, diversamente bianchi, eccetera. E poi sono amici degli americani, perché in America ci sono tantissimi ebrei, quindi c'è la lobby degli ebrei, è per quello che gli americani li aiutano. Vero, vero, ed è per quello anche perché gli israeliani si fanno sempre forti, perché sono spalleggiati dagli americani, ecco perché poi saranno maggiormente contro gli ebrei, i palestinesi, Hamas e tutti, capito? Perché sono filo americani. Gli americani basta che bisogna combattere, sono amici di tutti, per combattere contro gli altri. Stava lamentando della sanità, vabbè, un po' tutti ci lamentiamo, però hai visto, diciamo, ci sono soldi, però hai visto, per finanziare le guerre degli altri o aiutare, insomma, contribuire alle guerre degli altri, come i soldi li trovano sempre. Ehi, però lo sai cos'è? Che ci guadagnano dalle guerre gli americani, perché vendono. È un commercio, non l'avete ancora compreso. Invece, o sentito, lo so se è vero, ho letto che la Meloni o chi per lei hanno regalato gli F-16 vecchi di 30 anni, forse anche di più, forse anche non funzionanti a cosa, a quell'altro, amico, come si chiama, a quella sciabidattoli, Zelensky, capito, gli F-16 vecchi di 30 anni, dice obsoleti. Non so se poi hanno funzionati, no? In Germania non hanno fatto così, no? Gli hanno dato i canali armati che lo seguono a Cirenza. È come quando per aiutare i paesi dell'Africa gli mandiamo i farmaci, sì, però scaduti, tanto per loro vanno bene lo stesso. Vabbè, ciao a tutti, dai, che sennò mi infervoro per tutte le cose che stanno succedendo. Ci sentiamo. Natalia, adesso anche con l'Iran è un casino, mi sono, secondo me, tra Stati Uniti e cosa, Iran scocca la scintilla, da lì parte tutto, mi vediamo, pensarci, dai, saluta Concetta, saluta a tutti, se c'è il vicino e tutti, ciao Natalia, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti, dai, quello ti per me. Ciao, ciao Natalia. E quindi già, tu stai sempre cantando, usando quell'applicazione là. Gianni. Ho detto, stai sempre usando karaoke oppure quell'applicazione là, ma fanno anche gare, tipo online, roba del genere, competizioni? Sì, sì, ci sono le gare tra famiglie. Praticamente ognuno c'è la sua famiglia dove cantiamo e cose, e poi ci fanno le gare, ci fanno i contest. Ehi, ma solo l'audio o anche il video puoi fare, tipo videoconferenza? O anche il video, se vuoi puoi mandare anche il video, io gli mando il video. E così, così c'erano anche i programmi per la scuola, per la DAD, così si chiama, per studiare a distanza, no? Cioè, ti potevi connettere con tante persone che assistevano e potevi intervenire, insomma, tanta roba. Una volta non c'erano tutte queste cose qua, quando il computer non era... E se chiudevano le scuole per un'epidemia non andavi, semplicemente, insomma, magari ti promuovevano così politico. Ma no, Marco, questa qua si fa di tutto, c'è la chiappa al microfono, vede come la velocità è per il pulsante, va da 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, devi premere il pulsante, il primo che preme, e io cavolo, con il dito veloce che ho, vinco sempre io. E praticamente quando tu premi devi continuare la canzone che sta cominciando, devi continuare le parole, no? Poi se non sai le parole dici la la la la la e te lo prende lo stesso. Che cazzo, prima diciamo a Falcone, poi continuavi tu. Lui, Paoletto era da mandare alla corrida, quella che fanno a Sassari, l'avrei voluto vedere. Lui diceva sei umito, sei umito, perché dopodiché il cazzo iniziava già, no, non è un mito, no, sei un mito, eccetera, già, e continuava la volta. E tu guardavi, sei un mito. Mirto Zedda Zedda Piras, ecco, capito, non si tratta solo di cantare, si gioca anche, si interagisce, c'è il salotto la sera dove ci sono le controlle virtuali che ti siedi, fai discorsi, come possiamo essere qua a Maracchino, però si fa su internet, va. Sì, ma infatti il baracchino è anacronistico, ormai con tutte queste cose online, che ti vedi de visu al computer, tutto, audio, chat, scritta, file, scambio, cioè il baracchino è obsoleto, non serve a nulla. Ma tu non ci crederai, ma io le persone della mia famiglia, che così si chiamano, la famiglia, c'è praticamente il capo, poi c'è il co-capo, che sarebbe quello che lo aiuta, gli amministratori, di cui sono amministratore anche io, e poi ci sono, diciamo, i membri. E praticamente io faccio parte dello staff che organizza tutto, capito? se niente, ci fanno giochi, ci fa il nostro fatto, devi combattere il mostro, poi ci sono questi giochi, c'è il gioco del microfono, acchiappa microfono si chiama, e poi ce ne sono tanti altri, c'è quello del treno, ci sono tanti giochi che si fanno e si sfidano famiglia con famiglia, capito? Yeah. È come qua, mi, a chi è più veloce a pigiare il microfono a parlare? Se la chiama il microfono devi essere veloce, se no non ce la fai a prenderlo. Quando tu riesci a prenderlo, c'è la fotografia tua e alza la mano quando riesci a prenderlo. Sì, vabbè, poi lì naturalmente esclude gli altri. Qua invece magari se tutti abbiano il passino facile ci parliamo uno sull'altro. Oh, Iuia. Antone, c'è ancora? Ci sono. No, io sabato sono a pranzo da Cristian, giù alla Procia, che c'era Fabio. C'era Fabio Luca, più che altro Luca Flipper, quindi. Poi ci rivediamo direttamente lì, siamo io, Giovanna, mio cognato e un'amica di Giovanna. Siamo lì, Giampiero rimane in giro e quindi vado lì a mangiare. 10 euro a voi, c'è tutto c'è. A mangiare, finisco alle 5 di mangiare me. Una fittura, se non è che finisci alla 1, alle 5 finisci di mangiare. Tutto quello che c'è, antipasto, primo, secondo, te, e poi c'è il caffè, eccetera, eccetera. Alle 5 finisco. E vado lì di sabato. Sono da un po' di tempo che non ci scendo, la verità, sono a minimo 2-3 settimane, non di più. Una cosa, un circo. Ehi, lo sai, lo sai anche tu. Dietro Luca Flipper, Cicco Lacconi. Non ci sono mai andato. In che via è? Dove sono? Via Mustante, una cosa del genere si chiama. Come si c'è? Visto dove c'è, come si chiama, il cappetto di calcetto. Tiri dritto e c'è quella via lì, Musac, una cosa del genere, sono nome di Musa, lì mi ha detto te lo mando. Posso battere chiedere a Luca Flipper, è dietro casa sua rimane, proprio dietro a casa sua. E via Musten. Bravo, è a Musten, sì. Rimane lì, dietro a casa sua. E lì che riesci alle 5 da mangiare. A parte che la roba costa poco, la roba da bere, eccetera, eccetera, di mangiare buono, quello che c'è un sacco di gente, si balla, a volte si fanno i balli di gruppo, ho visto, io non ci sono mai andato, la verità, però ho visto i video, la verità, dei balli di gruppo di sera e d'estate, è veramente bello, perché conosci un sacco di persone, vabbè, io non è che li conosco tutti quelli che sono lì, a parte qualcuno che si mette a fare karaoke, per carità, meglio niente. Ascolta, ma lì ci vuole la testa per andare, a pranzo vai? No, non ci vuole nessuna testa, vado a pranzo io, devi prendere la prenotazione e venerdì, se tu vai direttamente lì al circolo, prendi la prenotazione e ti entro, da Cristian dice guarda Cristian sono io con 3-4 persone, tanto per dire, tanto pagano 10 euro l'uno, già lo sento tutto quello che si mangia, aspetta te lo dico subito, questa settimana. Allora, vediamo un po', che mi ha mandato un messaggio, Cristian, te lo manda su WhatsApp in pratica. Allora, sa- sabato c'è il karaoke, l'antipasto misto di salumi, formaggio cosciutto crudo, salsiccia e formaggio, poi ci sono penne ai sette peccati, merendare arrosto, fave, ribisari, più nervetti di vitella, poi c'è carne di asinello, arrosto, frutta, verdura, dolce, caffè e basta. Dare conferma, 10 euro grazie. E basta, a casa da parte il pieno. Se così per 10 euro si può fare, dipende come sono anche le porzioni, dai, magari te le farò per avere. No, il cazzo te le farò per avere, te la due volte le porzioni, non è che te la vota solo. Se lo saranno. No, se non ci sei andato io e Giovanna. Se vuoi due porzioni te la dà, è a voglia che te la dà. Io addirittura gli ho chiesto un giorno, e ti ascolta, siccome eravamo io e Giampiero sai che dentro non ci può entrare, perché è in carrozzina, abbiamo mangiato fuori, e gli ho detto a lui, e ti ascolta, ho detto, tanto già detto Giampiero, ho detto questa, e io ho mangiato un po' di fettine di cavallo, ho detto, e tutto non ce la faccio a mangiarmele. Ho detto, posso mettermi dentro una busta e poi me le porto a casa, non c'è problema, mi ha detto, me la date, non mi ha detto niente, quindi figurati tu. Poi ci aspetta un'altra cosa, c'è autunno in Malvagia, da notte la gita a Fogni per il 10-12-2023, Contes Apertas. Ma volevo 25 euro. Si attacca un brano. Ma lo so, l'ho visto adesso, prima non ho visto la verità, quindi a un certo punto, comunque sia, quello che ti ho detto io è sabato 4, quindi figurati, bene, siete peccati, cazzo, non va bene, a un certo punto. Allora Marco, si mangia, non immagino. Vabbè, la birra costa 2 euro, il vino costa 2 euro alla, come si chiama, la brocca, poi c'è il caffè costa, vabbè, te lo hanno gratis, poi cosa cavolo c'era, il limoncello costa 2 euro lo stesso, quindi a un certo punto stai mangiando bene, dove mangi così, la verità? La bere non è compreso però con le 10 euro. No, la bere con le 10 euro, non è compreso, lo vedi, lo dici troppo allora. Da mangiare solo, 10 euro, tutta questa roba qui per 10 euro. Immaginati che ti danno le porzioni per due persone, quindi immaginati tu. Poi se vuoi roba da bere, non fai altro che chiederla. Maria, come si chiama, balcone, mi serve una bottiglia di birra, appena 2 euro, guarda, quindi mica ho preso l'inchiusa io l'altra volta, che costava 1,74 euro, anzi di più, quasi 2 euro, sono rimasto secco, cazzo, se avessi saputo l'avrei pigliato una cassa, ne avrei presa, la birra inchiusa, 1,74 euro, fredda, hai capito? Non è tanto, dai, non è tanto. Se vai in pizzeria, quando mi faccio portare la pizza, me la farò pagare 3 euro la birra. E infatti, che ho fatto una bella cosa, me l'ho presa qua, vicino a casa, 5 o 6 mattine, e quando mangio la pizza, una mattina alla volta, me le faccio fuori. 75 centesimi con le grandi. Quello sì, vabbè, c'hai ragione anche tu. Io lì l'altro giorno ho preso insieme a Giovanna, sono andato a farmi in giro e ho preso la birra Moretti, 70 centesimi a bottiglia, la verità. E ne ho preso 5 io e 5 li ha preso Giovanna. Perché le locali le fanno pagare un re. Poi, quando vai a mangiare in pizzeria, non mangiare, te la fanno fare 3,50 euro una bottiglia di birra. Io ho preso anche quella non filtrata, quella buona. E la pago così. È tedesca, perché è tedesca, ma no, è buonissima, è quella non filtrata. Vabbè, quello è un discorso diverso, diciamo, sai che... costata totalmente diverso, ma a me sta bene quello che sto vivendo più in pratica, la Moretti, la Ichilusa, la Doer, la eccetera eccetera, sta anche bene 2 euro la verità, specialmente l'Aeken 2 euro è regalata, perché costa 1,74 qualcosa in poco, meno di quello non scende, questo è poco ma sicuro. Io quando sono sceso con Giampiero l'ultima volta che abbiamo mangiato fuori, addirittura gli ho detto guarda, gli ho detto in pratica se gli ho detto guarda, Giampiero ha detto cane, ha detto non ha mangiato, ho mangiato solamente io la carne del cavallo, detto, non è che me la posso detto, portare via per il cane, ha detto quale problema, mi ha detto l'hai pagata, quindi me l'ha messa dentro la busta, ha preso come si chiama, ha messo dentro la busta, me l'ha data per casa, gliel'ho chiesta e poi gli ho detto fa una cosa, ha detto quanto viene, ha detto la birra da portare via, mi ha detto c'è l'aria, mi ha fatto 2 euro, e tu allora ha detto dammi 3 e ce la beviamo io e mio fratello, gli ho detto quando veniamo a casa, perché eravamo io e Giampiero, hai capito, con la carrozzina, allora adesso c'è lui, adesso c'è la carrozzina quella motorizzata, quindi è una cosa diversa. Ma non cammina? No, Giampiero non cammina, oh no, non rimane in piedi Giampiero, con la carrozzina normale e poi c'è la carrozzina elettrica. Ho capito. Vabbè, pazienza, ma sempre bevendo molto, sa? No, già si beve la birra, quella che fuma anche, la verità, perché fuma la sigaretta, se ne fuma una decina, come ti posso dire, 4-20 minuti. E Simona la curti? Come faccio a portare la Simona io? Vabbè, la portare Simona. A parte cercare, come hai tutto, ma comunque se l'avrei portata lo sai che c'è problemi di dentiera, quindi cosa mangia? Non mangerebbe nulla, ma con la carne di cavallo mangerebbe, perché morbida a me. Cristian la fa morbida a me la carne di cavallo, si scioglie in bocca. Non so. Perché non ci rimetti i denti, scusa? Solo fare la domanda per fargli mettere i denti in modo che c'è la dentiera. Poi vabbè, adesso 15 giorni fa stava fumando di nuovo, adesso ha smesso da ieri perché cominciava a fischiargli glielo sai, no? I polmoni quando respira. Hai capito? Fischiava, gli ho detto, vedi tu cosa vuoi fare, gli ho detto. Se vuoi continuare, sono problemi tuoi, gli ho detto. Se no, fa come ti pare di bianco, a un certo punto. Sei stata ricoverata, ti sei messa in queste condizioni, se ci vuoi tornare, gli ho detto, sono problemi tuoi. Io non è che posso, ho detto, combattere. Devi stare tu, ho detto, a quello che vuoi fare. E ha mollato. Quella è asma, mia lì, quella lì quando fischia è l'asma. L'asma, fate l'asma, ma se continua a fumare gli crea cazzo di... non l'asma, no. Il problema che gli può creare cazzo torna alle... il liquido, capito? E quindi io non ho giocato di mettermi a casa l'ossigeno, hai capito? Il discorso è quello. Quando non riesce più a respirare, che fischi. Cosa fai? Altro che asma, Ma infisema? Lei ha avuto l'enfisema polmonare, il discorso è questo, quindi deve mollare. Sia che non sia deve mollare. Il discorso è quello, Marco. Lo sa anche lei. Io non mi posso mettere una bomba da 50 litri, cazzo di... di ossigeno a fianco al letto dove dorme e può saltare in aria magari, hai capito? Perché si accende una sigaretta, ce la fai, tanto quelle bombe le perdono, e me l'ha anche detto quello stronzo che me l'ha portata, hai capito? No, per carità, con l'ossigeno non si scherza. E io prima di entrare Simona ha detto quello stronzo con la portata e ha fatto, dice, mi sto portando questa è la bomba da 50 litri, mi ha detto, e me la mettiamo, ha detto, boh, quella lì dove la mettiamo, e me l'ha messa a fianco al letto di Simona. Allora no, Simona non c'era ancora, non è neanche rientrata dall'ospedale. A un certo punto mi fa, dice, guardi, dice, che queste bombe, dice, perdono, mi ha detto, dice, comunque adesso affetti un attimo che carichiamo anche la piccola e così nel caso sua moglie quando viene gli mette la mascherina piccolina e la scende col coso che poi neanche ce l'aveva Simona, che non ce l'ha neanche tuttora, grazie a Dio, la carrozzina, cioè in pratica ti mette la carrozzina, ti metti la mascherina e ce la scendi con la bombola dietro. Ah, sta scherzando, passa lo stronzo magari con un accendino, cosa del genere, con la sigaretta, cazzo, prendi il fuoco. Ah, mi la vai. Ma io vi lascio che devo andare a portare giù il cane, vai, vi saluto. Buona serata e buona continuazione, va. E ciao già, ci sentiamo, stammi bene, buonanotte. Io ciao Gianni, buona passeggiata. Copritimi che c'è, sono delle sferzate, poco. Io oggi ovviamente, siccome ho sempre dei caldane, Antonio, sai cosa ho fatto? Mattina e pomeriggio stavo facendo commissioni con lo scooter ed ero in polo, con la polo e basta, la maglietta polo, senza canottiere sotto, nulla, un freddo. E d'altronde però io poi mi accaldo conoscendo, quando vado ai negozi mi viene un caldo, però così si pigliano i malanni. Sì, vabbè, quello l'ho pigliato stamattina io, sono andato lì al supermercato, cioè alle poste, sono sceso correndo a pagarmi un... in pratica un bollettino. Sono arrivato da dentro, sono andato e dopodiché mi ha fatto questo scherzo quando ero all'interno, cazzo, stavo per mi ha fatto uno scatto strano come se fosse svenendo, capito? Allora ho preso, mi sono seduto nel sedile lì alle poste e ho aspettato. Siccome sono in sciopero le poste, già lo sai anche tu, fino al 30 di novembre, da ottobre al 30 di novembre sono tutti in sciopero solo, quindi immagini tu. Come in sciopero? Ma lo sciopero cesserà appena verranno accettate le condizioni, no, dei lavoratori, credo. Non saranno un mese in sciopero, no? Un mese, fondo tondo, al 30 di novembre, di ottobre al 30 di novembre, cioè se c'è scritto. E poi va Natali e Antonello, la verità, io alle poste non sto andando più da secoli, perché c'è molti pagamenti ormai li faccio a questi o tabacchino o bar che c'hanno non mi ricordo come si chiama, già hai capito, il terminale, quello lì, il computer, fai tutto lì. Certe cose in banca, che lì non fai fila nemmeno, entri, esci, e chi ci va più a fare fila alle poste? Per fortuna. Meno male, quello sì. Il fatto che io ho pagato l'acqua della... Hai capito? L'apparecchietto dell'acqua lo c'ho io, che mi depura l'acqua, cioè in pratica prendo l'acqua dal condominio e poi viene trasformata tramite filtri eccetera eccetera in acqua pura, capito? Acqua pura è acqua frizzante. E quindi ho pagato quello, 85 euro fino al 2027 ce ne ho. Non è per adesso a finire. Bene, sì, alle poste un po' che non che io ricordi che non pago roba, prima era una rogna farci un bel di fila, e guarda, anche in banca, certe cose che le paghi in banca, trovi una persona al massimo due, ma proprio massimo a crepatura, quindi le poste così. Nemmeno online li faccio i pagamenti, online cosa faccio? Solo il pagamento del condominio, che è un bonifico, e lo faccio dall'applicazione. Ma è un casino, capito, con questa applicazione. Faccio fra poco, toglieranno tutto, in pratica dovrai pagare online, sai quanto c'è la gente cazzo che ti tenta a un certo punto, ti chiede la password, cosa del genere, tutto il resto, cazzo che te ne fregano tutti i soldi dalle poste, lascia perdere, è tutto un togliaio. Poi devo togliere i contatti, capito? Ormai 10, 20, 50 euro non servono più un cazzo. Quindi a un certo punto ci dobbiamo pagare la roba online, basta, non c'è niente da fare. Deve mangiare e basta. C'hai il conto, ti metti il numero del conto corrente, eccetera, eccetera, la password, e poi devi fare poca di roba. Già siamo tutti noi, cazzo. Tu figurati gli anziani che saranno fregati, cazzo. Cosa faranno gli anziani a un certo punto? Come fanno a pagare le bollette? Ci mandano a te, cazzo, o a me, a pagare col telefonino, ma stai scherzando? No. Non esiste, hai capito? E quindi non lo so, è tutto un togliaio, è diventato, non si capisce più niente, no. Secondo me stanno sbagliando tutto, come da prima e basta, niente pagamenti in contanti, entra qualche deficiente per sbaglio, cazzo, qualcuno nel tuo telefonino, te togli la password, te togli tutto e ti togli e ti svuota il conto, è tutto attaccato. Sì, si stanno moltiplicando molto le truffe online, ma non solo per i siti di pagamento, sai, quelli istituzionali, fasulli, anche queste truffe, gli anziani, che ti mandano un messaggio da un numero sconosciuto, dice, ehi, sono tuo figlio, mi si è rotto il cellulare, questo è il nuovo numero, quando mai una non chiama il vecchio numero per sincerarsi se è vero, io, cioè, che credo a tutto, però c'è, cioè, e vabbè lì, cosa vuol dire? Tu dillo alla Meloni quello che gli è successo, spiegamelo tu, come ha fatto la Meloni, eh? A rispondere a due coglioni, cazzo, scusami, a due coglioni, cazzo, che hanno preso per il culo, come l'ha fatto a un certo punto, e la stessa cosa che guarda, potevano entrare anche nel suo conto bancario, lei non se ne sarebbe manco accorta, avrebbero svuotato il conto bancario, te lo dico io, allora, fatto, se volevano potevano fare anche di più, ma non l'hanno fatta, non solamente presa per il culo, secondo me gli hanno dato un avviso, perché sono tutti e due russi, sono due stronzi russi, hai capito? Sono entrati lì nel sito del come si chiama, intanto hanno parlato con lei, a prenderla per il culo, cazzo. Dimmelo tu, cazzo. Ah, se tu immagini questi due vanno a fondo, cazzo. A un certo punto dice, se l'abbiamo presa per il culo, così possiamo tranquillamente entrare nel suo conto corrente, nel suo votaglio, no? E lei rimane senza manco la linea, a un certo punto. Perché tanto in Italia non c'è nessun controllo. Che controllo c'è? Nessun controllo. Beh, prevenzione cosa puoi fare di informatico? Puoi solo agire quando il danno è fatto. Vabbè, però molti si cassano, ti mandano messaggi, dicono il tuo conto stanno svuotando il tuo conto, siamo la banca, no? Dici, stiamo svuotando, clicca qui al più presto per bloccare i tuoi movimenti, quelli cliccano, magari gli chiedono la password, il nome utente, perché alla fine Antonio, ricordati che è l'utente finale che dà il colpo di grazia al suo conto, che avvia la truffa, capito? Mettendo i dati personali. Invece basta chiamare, che ne so, la propria banca e dire, mi avete mandato voi questa comunicazione? No, cliccano il cliccabile, come quello che ti dice, vabbè tu non te lo ricordi, forse sì, hai vinto un premio, hai vinto un iPhone, no? e io conoscevo gente che cliccava qualsiasi cosa, bastava leggere gratis, oppure hai vinto, cliccavano qualsiasi cosa, e poi insomma rischiavi di perdere i soldi, di avere il computer tutto troiato da troiani, malware e quella roba lì, capito? Già lo so per quello, sì, non ci mancherebbe, c'è tuttora questa cosa qua, hai vinto 250 euro di spesa dello Spini, hai vinto questo da quell'altro, eccetera, ma c'è tuttora questa cosa qua. A me mi sono arrivate 28.000 euro, mi sono arrivate, non ho mai aperto io quel sito, capito? Su WhatsApp, a un certo punto. Poi il bello che la banca, cazzo, è quella che ha fallito, perché non c'è più. Quindi in pratica che cazzo apre il conto? Poco l'aprire il conto c'è. Sì, guarda, arriva di tutto, anche l'email del falso corriere, che ti dice c'è un pago per te, accedi, non so, tutti imbrogli sono, solo che certe volte il computer o lo smartphone è compromesso, tu non te ne accorgi nemmeno. E poi, che ne so, altri esempi, certe volte negli smartphone compare questo piccolo pallino in alto a destra o in alto a sinistra, semitrasparente, no? E non sai cos'è, lì praticamente è qualche applicazione che sta attivando o la fotocamera o l'audio, e quindi sei intercettato, capito? Non si sa da chi, non si sa come, tutto un pasticcio, è tutto un troiaio questo dell'informatica, capito? E quello succede nel 5G, naturalmente. Quindi a un certo punto, vabbè, adesso c'è il famoso Starlink, quindi se vuoi parlare al telefono, non fai altro che contatti col telefono e parli tranquillamente con lo Starlink, ti fai l'abbonamento e non chiedete che tenga, prende anche dentro i fussi, ti prendi uno di quelli, si paga l'abbonamento e è fatta. Hai detto Starlink? Sì, Starlink, sì. Esce il prossimo mese esce, a dicembre. Lo Starlink operativo a dicembre. Cioè in pratica puoi tranquillamente telefonare col telefono, c'è un telefono 5G che non mi ricordo che lo faccia, ed è satellitare, quindi operativo satellitare, quindi puoi tranquillamente andare dove cavolo ti pare, ti piace, dentro un fosso, quindi ci metti sottoterra e prende lo stesso. C'è l'orario naturalmente, non è che gli Starlink passano sopra tutte le ore, no, lo sai che c'è il trenino, no? Quindi non penso che passi ogni due o tre ore questo trenino in tutto il mondo. Sì, vabbè, comunque per telefono satellitare esisteva già Iridium da anni e anni, Iridium, lo conosci? Poi sì, il trenino Starlink di satellite, infatti lo volevo vedere dal terrazzo, volevo cercare col binocolo, con la videocamera, con lo zoom spinto di riprenderlo in uno dei passaggi un po' ravvicinati, no, alla zona nostra. E una volta sono salito in terrazzo per vedere la ISS col binocolo, ma Antonio, un missile, c'è un missile molto veloce, non riesce a tenere il binocolo ben inquadrato, anche perché poi ti balla l'inquadratura, ma c'è un punto, devi vedere, quando è arrivato quasi sulla verticale, è diventata luminosissima, forse ha preso più luce, non so bene come sia, c'era un punto che solo che non riesce a distinguere bene i pannelli solari o la forma, vedi questo punto luminoso, vabbè, col binocolo un po' qualcosa in più la vedi, ma è troppo veloce, Torino, non riesci a tenerla, a tracciarla. Sì, già ho capito. Io ho scaricato un pratico una volta un'app dove c'era tutti gli Starlink, c'erano le frequenze operative, in che su uscita, eccetera eccetera, compreso anche quello della ISS, che adesso non me lo trovo più, la verità. Ma quando ho dato Giampiero quel telefonino, l'altro, me l'ha cancellato. Se non era lì, era. Ti ha aperto tutte le frequenze, tra l'altro, invece uscita. E avessi ascoltato con quegli apparecchi che abbiamo noi. E poi vabbè, invece certe volte la ISS la beccavi anche col portatile, quando parlava con le scuole, no? A 145-800, sentivi naturalmente per forza solo la ISS, perché in VHF, e con l'antenna di macchina io l'avevo registrata, mi pare due volte o tre, ed erano i passaggi proprio che passava quasi sulla Sardegna oppure sulla verticale e arrivava bene, caspita, riuscivi a coprire da Piazza Lessegni 9 minuti di comunicazione, e poi vabbè la perdevi perché arrivava troppo lontano, capito? Andavi, per quanto è in alto andava proprio oltre, capito? La perdevi che era sulla Russia, mi pare, quando arrivava sulla Russia era già il segnale troppo basso. No, io ce l'avevo, avevo tutte le frequenze, adesso Giampiero mi l'ha, avevo prestato il telefono a Giampiero, mi l'ha cancellato tutto, mi ha cancellato, se non ce l'avevo, la verità, quindi figurati, avevo tutte le frequenze, ingresso, uscita, per poterci parlare, eccetera, eccetera. Quindi adesso mi ricordo, ma con l'app qual era? Figurati tu. Non me ricordo più, non me ricordo veramente più di questa cosa qua. C'era addirittura la, quando passava, la ora che passava, hai capito? Eccetera, eccetera. Non voglio più nulla. Mi aveva cacciato tutto Giampiero quando gli ho passato il telefono io, perché gli avevo passato a lui, o lui, all'altra, mio nipote, mia nipote si è scaricato tutti i videogiochi, si è scaricato. E a questo proposito, una volta su quei siti di Paradiantori CB girava anche questo file dove c'erano regione per regione tutte le frequenze di tutti i servizi, polizie varie, carabinieri, tutto, coso, guardie costiere, tutto, frequenze degli elicotteri, del non so cosa, tutto c'era. Era uno in formato di testo, tipo TXT, e l'altro era un PDF, poi perso, non ho più trovato, penso che fosse su quell'hard disk che si è rotto proprio il disco, sette, clac, clac, tutto c'era, senza dire tutto, non solo roba amatoriale, tutto, e corrispondevano, le frequenze corrispondevano, tu guardavi quelle di Sassari, tutto c'era, poi è arrivato il tetra e addio, tutta la nomandezza, non serve più niente. Vabbè, ormai cosa ti arriva, se ne vai più nulla, cosa fa? Che ce ne frega ormai? L'unica cosa è avere un po' di soldi, 1600 euro, ti pigli un bel ricevitore, e allora puoi fare quello che vuoi, la riascolto. O se no, una di quelle pennette, se riesce a fare una cosa del genere, agganci la pennetta al computer e a parte ci vuole anche l'antenna, magari ci vuole un'antenna di cazzo, ci vuole una riscola, ci vuole, eccetera eccetera, per arrivare tutti in tutte quelle frequenze, gigahertz, eccetera eccetera, non è così facile, ci vuole un bel po' di soldi, ci vuole. No, ma poi per ascoltare cosa, va? E poi vabbè, queste pennette, però questo di dipendere dal computer per ricevere le onde radio a me non piace. Cioè a me piacevano i ricevitori classici, tipo quello che ho io, classico, analogico, come lo puoi chiamare? Ricevitore vero e proprio, no? Indipendente dal computer, che non ha niente a che fare col computer. Poi vabbè, ogni tanto è comodo, sì, in casa, quando sei stabile, però ho sempre preferito la roba a sé stante, ricevitore puro, No, e certe volte il computer ti fa avvelenare, o non funziona questo, o non ti funziona l'audio, insomma, non si sa mai, è sempre un'incognita, come questo CDR. Copi di asso, come fate a compiere, non ti preoccupare, che ci mancherebbe. Infatti non sto pensando il computer io, la giovane padrino, la giovane padrino. sono tutti, cioè, finché non fanno il wifi a gratis, cosa deve fare? Non deve fare proprio niente del computer. A un certo punto dovevano farlo già da prima gratis il wifi per tutta la città, invece capito, bisogna pagare, quindi a un certo punto ci vuole more, eccetera eccetera, è inutile stare in queste condizioni, no, non è che devo spendere 22 euro per che cosa, per navigare dove? Non me ne frega niente di navigare, cioè il telefonino, navigo con quello e se la biglia in culo, il discorso è quello. Ma lì hai la scheda per navigare, no? La SIM. Certo che ho la SIM per navigare. Non ho la SIM dati come si usa con la pennetta, capito? Una la SIM dati, l'altra la SIM normale, che si usa per il telefonino. Ma tu hai la SIM dati, cioè puoi navigare col telefonino o puoi solo telefonare? Cosa che telefonare io col telefonino? Come fanno tutti, usano il telefonino e hanno un tanto di telefonato, un tanto di giga, il discorso è quello. No, perché una volta c'era l'hotel lì, ce l'acciava il wifi aperto, senza password, questi sono matti. Adesso hanno serrato, mi ammacco. La pacca mi è rimasta per 2 anni, è qualcosa di più, la verità, perché c'era da una parte e anche dall'altra, a gratis. Poi invece dall'altra ha fallito, dove c'è l'hotel, in pratica ci vuole la password, capito? Solo nel piano basso funziona, hai capito? Piano terra, ho già fatto la prova. Quindi cosa faccio? Mi metto cazzo sopra il tetto e mi inchino e ti vado io solo. Se la può pigliare in culo. No, non esiste, no. Ma neanche volta non è stato un cazzo. C'ho il telefonino quando devo andare su internet, ci vado col telefonino. Con computer lì. Al limite mi aggancio giù. Perché c'ho il computer, cazzo, già lo sai che è vecchio, è mio. Batteria e scarica, no, non puoi neanche ricaricare, quindi ci vuoi più di batteria che di computer. Quindi a un certo punto ormai il computer ho visto che non usa più nessuno. Tu hai visto gente con computer in giro, Sasa? Io penso di no. Non usa più nessuno il computer, tutti usano il tablet adesso. C'è il tablet con la scheda SIM, dati e quella per telefonare. Usano quello per lavoro. Quindi si sono aggiornati. Antonè, sapevi che la sala giochi di fronte a te non c'è più? Cioè hanno lasciato il locale perché secondo il gestore era troppo oneroso e si sono trasferiti dove c'è il vialetto, al piano terra, ma Antonè, dalle stelle alle stalle, una stanza, proprio una stanza con le macchinette tutte attaccate una all'altra, poi dietro le macchinette ci sono altre macchinette tutte buttate a mezze rotte. Non c'è il bar, non c'è il cambio banconote, mi pare di ricordare, non c'è manco il cesso, non c'è nulla, bruttissimo. E adesso per il gestore, mentre prima si pagava molto ma qualcuno ci andava, adesso in quell'altro è talmente brutto che non ci va nessuno. E non so quanto gli sia convenuto cambiare. Immaginavo, ho fatto una cosa del genere. Guarda, tanto per dire, adesso se volevo fare un locale macchinette, lo facevano dove c'era il bar Andrea, il primo, mettevano le macchinette lì, ne mettevano 6 tutte in fila, tanto per dire, c'era anche il bagno lì, e sarebbe andato bene, grazie a Dio. Quindi non è che sia andato male, il discorso è quello, quindi vuol dire che ci hanno rimesso, non lo so, parecchi soldi lì e quindi sono in mezzo alla mondezza, diceva quello. Ormai le macchinette non ci fa più nessuno, non ci fa, capito? Il discorso è, ma se tu noti, tanto per dire, al tabacchino a comprare le altre pince non ci va più nessuno, perché si è accorto che ormai tutti hanno capito, ora sono il fessore di turno io, vado, spendo 3 euro e non vinco niente, cazzo, se li incassa il tabacchino, ah, che se ne va a fanculo, oppure cazzo, quello che posso dire, gatte vinci, la lotteria Italia, ormai non gioca più nessuno, non gliene frega più niente, anche perché la vincita, la metà della vincita se la prende lo Stato, hai capito? Certo? Quindi che cazzo me lo fa fare, cioè, se vinco 50.000 euro, cazzo, se ne piglia 20.000 lo Stato, ma stai scherzando? Sì, ma poi l'altra parte rimane a te, cioè anche se lo Stato se ne prende una parte, sempre meglio avere qualcosa che non nulla. Io per esempio Superenalotto magari è quello che costa meno, magari un paio di volte a settimana lo gioco, sia mai, qualche, immagina che qualche babbeo con 2 euro ha vinto milioni di euro e lui diceva lo stesso, tanto non vinco, ma li gioco lo stesso, e qualcuno ha vinto. E poi proprio oggi ho preso un biglietto per la Lotteria Italia, della Lotteria Italia, 5 euro. Come va, va? Cosa vuoi che siano 5 euro? Una volta all'anno lo fai. Già se vinco già ti faccio un bel regalo. Ci pigliamo, guarda, non è che ci pigliamo, e forse è meglio, perché già su quello che vinci te ne prendono, mi sembra solo il 10%, insomma, ricordo male, più devi pagare anche le tasse, eccetera, eccetera, cioè se io dovessi vincere una cifra, come ti posso dire, di 1 milione di euro, la metà devo dare allo Stato, quasi la metà, poi mi tocco il reddito di cittadinanza e mi rimango con 500.000 euro, cosa faccio con 500.000 euro? Dimmelo tu, quanto ci vivo? Io mi faccio il calcolo, guarda, lo dico subito, ci vivo fino al 2027, dopodiché sono fregato io, nel 2027 non c'è più reddito di cittadinanza, non c'è più inclusione sociale, eccetera, eccetera, mi dico, se avanti, signor Antonio, se avanti, ce li ancora i soldi, mi dico, hai capito? Vabbè Antone, comunque io meglio di niente, tu dici vabbè non durano più di tanto, ma infatti quello che dico io, se devi vincere, meglio vincere grosso, più grosso possibile, se vinci almeno qualche milionata di euro, metti che te ne diano la metà, però almeno si parla già di 1 milione di euro, 2, 10, 20, che ne so io, immagina se fai 6, io dico che come dico io, se tu leggi la schedina che hai fatto 6 al Superenalotto, ti viene un infarto e praticamente se lo godono i tuoi parenti. Come cazzo se lo mangiano i miei parenti? Cioè, magari a me mi fanno la barra di cartone, capito? E i soldi si ritengono. Beh, quello sì, fa una festa, non è che siano così, no? Il cartone non credo me la facciano, perché io sono andato, l'altro giorno sono andato al cimitero, mi sono fatto quasi 3 chilometri di cimitero, partendo da Viale Produttore, sì, figurati tu, arrivi lì dove ci sono i militari, poi continui diritto, fino in fondo, fino ad arrivare alla pistola che arriva a Pedanietta. Beh, se tu vedi quelle tombe, sembrano villette, sembrano. È una cosa allucinante, sono veramente belle quelle tombe, quelle già se le fanno pagare, cazzo. A voglia se la fanno pagare. Per 30 anni, figurati, è come se tu facessi, cosa ti posso dire? Per 30 anni fai che sia 500 euro al mese, una cosa del genere, per 30 anni, nulla nulla ragazzi, contatto, cioè, a te ce l'ho conto. Sì, allora a parte gli scherzi, allora io le barre di cartone le ho viste in certi film e telefilm americani, proprio poverissimi, barre in cartone, naturalmente è un cartone un po' spesso, cioè deve reggere il peso del corpo, no, umano. Però credo che le bare in cartone siano destinate a chi fa la cremazione, però qua lo dico e qua lo nego. In Italia la verità non so se si arrivi a tanto, però può darsi pure che chi è poverissimo, tipo un barbone, senza famiglia, senza niente, non saprei, dovrei chiedere. Perché figurati se il comune ti compra la bara bella in noce o quello che è, ti mette in una bara, nelle scatolette di tonno ti mette. No, già te la bara, non ti preoccupare, non te la bara di cartone, non ti preoccupare. Preoccupato sei. No. A tutti dalla bara, gliela paga il comune. Saranno 2000 euro quello che è, però il problema è che due sono le cose. La cremazione viene di 3.000 euro e va fatta a Olbia, invece quando si sotterrano così, in pratica ti mettono, ti fanno un buco, c'è un punto, si è notato, io l'ho visto ieri, che sono andato lì al cimitero, si va già vado, ho visto un punto dove c'era tutto parte verde e c'erano queste croci, con nome e basta, senza niente, hai capito? Quindi in pratica sono la gente povera. Allora, sai che desolazione mi ha fatto la verità? Mi ha fatto proprio una desolazione, cioè se hai una sepoltura dagliela, cosa ti posso dire? In quei docoli piccolini, vaffanculo, li metti lì, ma non metti lì, cazzo, metti la terra e gli metti una croce, capito? È brutto così, è brutto anche da vedere, cazzo. C'è un pezzo, se tu ci vai, già lo vedi, in pratica dal cimitero vecchio al cimitero nuovo, e lì è verde, hai capito? Sembra un prato in corso, ci vedi solo una ventina di croci, non ci viene nient'altro, la gente si è posta lì, che non c'ha nome, non c'è scritto né nome né cognome né niente, sono sepolti lì e basta. Ehi, ascolta, ho dato un'occhiata su internet, allora sembra che ci sia mercato in Italia di bare di cartone, però sono più che altro per quelle, come si dice, cremazioni green, no, in modo da non avere troppo legno a bruciare. Francamente io però a Sassari non le ho mai viste, nemmeno in camera mortuaria, no, mai. Ci sono le bare più economiche che costano da 600-700 euro, sono in quel coso rossiccio, quel legno rossiccio, ma l'ho letto poco fa, vabbè. Comunque, dai, speriamo di non finirci ancora per un bel po'. Ascolta, quando sarà il momento opportuno mio, mi faccio mettere il baracchino dentro, mi faccio mettere col coso, sopra, col pannello solare, sul canale 10, in modo che almeno quando sono morto, almeno qualcuno parla e risponde. Sì, dall'oltretomba vorresti parlare, cavolo, te ne immagini, ma no, io mi faccio, siccome sono ricco, mi faccio il mausoleo come Berlusconi, mi faccio mettere a culo verso l'alto, capito? Così chi guarda la tomba mi deve baciare le chiappe. Ehi, mi guarda che se tu la pigli per scherzo, guarda che se tu scendi nel cimitero, vai dalla parte nuova, è tutto pieno di cosomi, di mausolemi, c'è un sacco di gente ricca, c'è mi che gli ha comprato, che si è fatto la casetta per tutte le famiglie e cose del genere, ma sai quanto ce ne sono? È pieno. Sia, però più che il mausoleo, sai qual è, secondo me, una delle tombe più belle a Sassari? Non so se la conosci, l'avrei vista per forza. Quella tipo a forma di piramide, dove ci sono anche statue degli angeli, poi ci sono delle mezze sfingi con la testa di caprone ai lati, è una specie di misto tra sacro e profano, una cosa da tipo massoneria, però quella credo che sia la più bella. Poi dipende dai gusti. E poi la tomba di Ardisson, dove c'è la statua in bronzo della morte che tira le anime a sé. È impressionante, però, sai, è bella. Ce n'è un'altra, ce n'è. L'ho vista ieri. C'è in pratica una punta, poi c'è un cerchio sopra, e poi non mi ricordo bene, non ho fatto la foto, sono dove l'ho fatta, guarda. Ma già te la faccio vedere, il giorno che scendo, e lì al cimitero.